Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Insomma, lui era là. Ero io che là non c'ero. O almeno non ero arrivato puntuale secondo i suoi calcoli. Per lui era impensabile che io non fossi tra i primi. Lui era venuto a vedermi, ma non lo aveva fatto da solo, no? C'era venuto con tutte le aspettative su di me. Quelle che probabilmente aveva sin da quando ero un bambino. Quelle che mi aveva disegnato addosso. Quelle che mi aveva detto. E quelle che invece io avevo solo intuito. Spero proprio di non averle deluse. O almeno non troppo. Mi chiamo Alessandro Lazzaretto, ho 44 anni, sono nato e vivo a Torino, sono sposato con Anna e papà di due bambini, Francesco e Paolo. Mercoledì 7 settembre 2011, sono le 16:06 in punto, questa è Radio 24, buongiorno a tutti, io sono Matteo Caccia. C'è un numero di sms per chiamare, per mandare messaggi in diretta, è 349-238-6666 e c'è anche una mail che forse ancora qualche... non ha problemi la mail, no? Non è vero. Voi siete qui, @radio24.it. È solo un po' intasata, ma adesso la liberiamo. Il problema è che io non riesco a selezionarle tutte, devo cancellarne una a una, Viola, capito? Tu secondo me riesci a selezionarle tutte, quelle da cancellare che non servono più. 349-238-6666 per gli sms, oppure voi siete qui, @radio24.it. Continuiamo a raccontare le storie che mi avete mandato voi nell'arco di questi 4 mesi, che continuano ad arrivare. E tra l'altro arrivano storie in maniera diversa. Vi ricordate che avevo fatto l'anno scorso durante il salone del libro, avevo anche raccolto delle storie a mano. Però sinceramente non mi aspettavo che arrivassero delle storie via lettera, proprio via lettera cartacea. Credo che questa sia figlia in realtà non tanto della raccolta che abbiamo fatto noi, quanto di quel promo che ha tormentato gli ascoltatori e i conduttori di Radio 24 per tutta l'estate. Era un promo in cui in sostanza si raccontava che programma sarebbe stato. Voi siete qui, ogni tanto mi esce ancora. Ragazzi, io, voi. Insomma, si diceva che tipo di programma era e si raccoglievano i racconti. Bene, l'altro giorno è arrivata questa lettera. Noi non controlliamo mai la casella delle lettere perché di fatto noi non ce l'abbiamo. Allora Alessandro Marcotulli ogni tanto va di là dove ci sono le buste che arrivano e dice: oh raga, questa è per voi, magari se guardate ogni tanto. La lettera è questa qua. È scritta a mano. Viareggio, 29 agosto 2011. Invio questo breve racconto autobiografico su carta perché sono diventata ipovedente e non so usare il computer. Sabato. Saluti. Ce la posso fare. Saluti a tutti gli animatori di Radio 24 che seguo molto volentieri. Alessandra da Viareggio. La lascio qui per quell'animatore di Barisoni che secondo me è contento di sapere che anche Alessandra da Viareggio lo saluta. Il racconto di Alessandra non ve lo leggo adesso perché è arrivato e ancora lo dobbiamo prendere. A parte che lo dobbiamo rendere elettronico. Qualcuno... Viola, non guardo nessuno, ma credo che qualcuno dovrà riscriverlo su un computer questo. Si intitola Ricordo di guerra. Chissà quanti anni ha Alessandra. Insomma, non l'abbiamo ancora elaborato perché voi sapete, vero, che noi non è che proprio li pigliamo e li leggiamo paro paro in diretta. Diciamo, ci prendiamo la libertà di metterci un pochettino le mani in questi racconti che ci mandate. È successo esattamente così anche per il racconto di oggi, che è il racconto di Alessandro Lazzaretto. È un racconto che parla di un episodio particolare della vita di Alessandro, che parla di una gara, di una maratona. Attraverso la maratona però in realtà racconta un'altra cosa, che racconta le aspettative che suo padre aveva su di lui e che sono venute fuori in una domenica mattina durante una gara. 349-238-6666, se volete raccontarmi quali erano le aspettative che i vostri genitori avevano posto su di voi, come hanno fatto ad esempio Francesca sul profilo Facebook: io l'ho lasciata a mia sorella le aspettative, da brava primogenita si è fatta intortare. Oppure Sonia: il problema è che i miei genitori non avevano aspettative. Questa effettivamente può essere un problema. E poi lui, Francesco. Fino a 20 anni ero la delusione costante dei miei genitori, poi totale cambiamento. E felici di essermi visto votato, rivotato e ora presidente circoscrizionale, comune di Trieste, eletto 2 anni fa dopo 3 in cui ero stato eletto consigliere. 3 mesi fa rieletto primo consigliere, il più votato di tutto il centrodestra, scrive. E subito dopo nuovamente presidente, l'unico di centrodestra. Per mia madre soprattutto, a prescindere dalla visione politica, un orgoglio infinito, anche se a scuola prendevo 6 ed era già tanto. Per diplomarmi ci ho messo 6 anni al liceo. Ciao, buon lavoro. Buon lavoro, c'è chi ci ha messo 7 anni. Buon lavoro è un po' da centrodestra. Cioè, io mi immagino Gagliani che esce dagli spogliatoi del Milan e dice buon lavoro a tutti, no? Centrosinistra è più... Ciao, ci siamo visti. 349-238-6666, Patrizia, io credo di averli soddisfatti. Si parla delle aspettative dei genitori. Sono sempre stata forse come loro hanno voluto. Forse per fare questo ho deluso me stessa e ho chiuso i miei sogni in un cassetto che ormai non apro da tempo. Patrizia, su! Su, Patrizia, stai su. È arrivato il momento di raccontare però una storia, che è la storia di oggi. È la storia di una corsa, è la storia delle aspettative dei propri genitori, è la storia di Alessandro. Ho sempre fatto sport, di vario tipo e con alterne fortune. Ma sempre con passione e dedizione, talvolta anche con buoni risultati. Un giorno a pranzo comunico alla mia famiglia la mia intenzione di dedicarmi alla corsa a piedi. Nessuno si stupisce, è una cosa semplice, non richiede troppo impegno. In questi anni è diventata quasi una moda. Io ho 35 anni e non mi va di farlo diventare un impegno. L'intenzione è proprio opposta. Insomma, si tratta solo di un'attività amatoriale, senza particolari velleità agonistiche. Ecco, questa cosa è chiara a tutti, tranne che a una persona. Mio papà si chiama Nereo, oggi ha 71 anni ed è una persona che mi ha sempre sostenuto e appoggiato. Da ragazzo ho giocato per 15 anni a football americano, anche a tanti livelli, e lui era sempre lì, anzi per un certo periodo è anche stato presidente della mia squadra, proprio perché in quel modo era sicuro e riusciva a stare con me, che sono figlio unico, a condividere con me dei momenti che fossero così di divertimento, ma anche allo stesso tempo di impegno sportivo. L'inverno passa veloce, la corsa diventa una passione. Mi sveglio presto la mattina, mi infilo i pantaloni termici, metto le scarpe, che ormai sembrano disegnate sul mio piede, ed esco. Mi piace sentire l'aria fredda che mi entra nelle narici. Mi piace sentirla che si fa spazio fra i polmoni e va sempre più a fondo, come se li scavasse, come se ne aumentasse il valore. In pochi mesi perdo peso, acquisto massa muscolare. Il mio corpo ora sembra diverso. Ho letto da qualche parte che la corsa dà una forma di dipendenza, una dipendenza da sforzo, come se ad un certo punto la fatica diventasse godibile, quasi irrinunciabile, come se ti desse la misura del tuo benessere. Le chiamano endorfine. Insomma, ben presto provo il desiderio di mettermi alla prova e decido di correre la maratona della mia città, Torino. Ora, per chi non la conoscesse, la maratona è una gara sfiancante, prova il fisico e soprattutto la mente. I migliori la fanno in poco più di 2 ore. Io conto di mettercene 4, anche se mi fa quasi paura immaginare di stringere i denti e non pensare alla fatica per 4 ore di fila. Lo racconto a casa e mio papà ne è entusiasta. Promette che verrà a vedermi passare a metà percorso, che si trova non lontano dalla casa di alcuni parenti. E poi finalmente arriva il giorno. In una fresca mattina di primavera mi schiero. Al via ci sono 2000 podisti. 3, 2, 1, partiti. Sento subito che la gara è diversa dalla corsa semplice, perché non sto correndo da solo come faccio da giorni, sto correndo per battere qualcuno o qualcosa. Quella cosa è un tempo e quel qualcuno sono io. Mio padre mi ha chiamato però, mi ha chiamato ieri, mi ha confermato che si farà trovare sul Po, proprio davanti alla chiesa della Gran Madre. Io ho una prima crisi dopo circa 40 minuti, ma la supero con pazienza. Il risultato però è che sono in notevole ritardo sulle mie previsioni. Ma sì, ma va bene così, mi dico, in fondo è la prima maratona. È già buono arrivare alla fine. E quasi mi dimentico dell'abboccamento con mio padre. Ma appena arrivo di fronte alla Gran Madre, inizio a guardarmi in giro per cercare sui marciapiedi la faccia di mio papà. Vedo un signore che gli somiglia, ma sta passeggiando con un cane e noi non abbiamo animali. In più, avvicinandomi, mi rendo conto che non gli somiglia per niente. Vedo famiglie con bambini, qualcuno che passeggia incuriosito dai corridori che passano, ma di mio padre nemmeno l'ombra. Un po' sono stupito e sinceramente sono anche un po' deluso. Ma faccio finta di niente, ho altri problemi in quel momento e tiro dritto, imbocco il ponte e non ci penso più. Termino la gara con un tempo discreto. Sono soddisfatto, bevo 3 litri d'acqua, vado a casa, mi faccio la doccia e finalmente mi godo un riposo che non conoscevo. Improvvisamente però mi viene in mente che ancora non so dove sia finito mio padre. E allora gli telefono. Ciao pa, tutto bene? Ah sì, certo che ho finito la corsa. Come non m'hai visto? Ma no, scusa, tu piuttosto, dov'eri? A quel tempo i miei zii abitavano a Rivalta, proprio a un mezzo isolato da dove passava la corsa allora, e lui mi ha detto: io vado a trovarli, se poi quando passi almeno ti vedo passare. E non vedendomi, lui realmente ha preso poi la sua macchina e se n'è andato a casa, era proprio sparito. Insomma, lui era là, ero io che là non c'ero, o almeno non ero arrivato puntuale secondo i suoi calcoli. Perché per lui era impensabile che io non fossi tra i primi. Lui era venuto a vedermi, solo che non l'aveva fatto da solo. Si era portato dietro tutte le sue aspettative su di me. Quelle che probabilmente aveva sin da quando io ero un bambino. Quelle che mi aveva disegnato addosso. Quelle che mi aveva detto e quelle che io avevo solo intuito. Ecco, spero di non averle deluse. O almeno non troppo. Quest'estate ho letto un libro che si intitola Open, la mia storia. L'ha scritto Andrea Agassi. Che, oddio, in realtà non l'ha scritto lui. L'ha scritto un tizio che si chiama J.R. Möhringer. È un tizio che ha pure vinto un premio Pulitzer. Però l'ha scritto insieme ad Agassi. Agassi, per chi non lo conoscesse, è uno dei migliori tennisti del tennis moderno. Questo libro è una biografia. È la storia di un uomo che raggiunge i vertici più alti dello sport, del tennis nella fattispecie. Solo che lo fa ad un prezzo elevatissimo. Arriva ad odiarlo. La cosa più sconvolgente di tutto il libro è proprio questa. Cioè è l'idea di una persona che fa una cosa dei livelli altissimi e la odia con tutta la sua forza. E il motivo di quell'odio erano proprio le aspettative del padre. Il papà di Agassi era un signore scappato dall'Iran, che di mestiere faceva il croupier a Las Vegas. E niente, lui aveva deciso che il figlio sarebbe diventato il numero uno del tennis. Quindi per tutta l'infanzia, per tutta l'adolescenza, l'unica cosa che lui riesce a fare nella sua giornata è giocare a tennis. E l'unica cosa che non riesce a fare nella sua vita è amare quello sport che il padre gli ha imposto di giocare. Perché uno dei passaggi più incredibili del libro racconta di quando ormai adulto, subito dopo un match, Agassi va in ospedale a trovare il padre, che è stato operato da poco. E il padre, con il pochissimo fiato che ha in corpo, lo rimprovera per aver giocato troppo sul dritto dell'avversario, che era il suo colpo migliore. Ora, hanno chiaramente scritto libri interi di psicologia sui traumi lasciati dalle aspettative dei padri nelle psiche dei figli, e non mi interessa analizzare la questione, ovviamente. Anzi, mi interessa probabilmente ringraziare mio padre e anche mia madre. Non mi hanno mai imposto niente, non mi hanno mai nemmeno chiesto niente. Mi ricordo che quando ho deciso di andare a giocare a calcio nei pulcini della S Romentinese, non è che ne avessi proprio una gran voglia. Però io ero semplicemente convinto che si dovesse fare così. Mio papà non mi disse cosa dovevo fare. È solo che ascoltavo i suoi racconti di quando lui era un'ala destra, agile e veloce, diceva. Mi raccontava del provino che doveva fare alla Pro Patria e del menisco che gli era saltato pochi giorni prima e che gli impedì di fare quel provino. Insomma, la tipica promessa stroncata sul nascere. E io invece di promesse non ne avevo fatte. E nessuno ne aveva fatte su di me. Ma presi le scarpe coi tacchetti e andai al campo sportivo a fare il mio primo allenamento. Avevo 8 anni. E in fondo ciascuno di noi fa delle promesse nella vita. Alcuni le fanno e se ne dimenticano. Altri le mantengono. Altri ancora non le mantengono e non se ne dimenticano più. E iniziamo sin da piccoli. I grandi tacitamente ci fanno promettere che a scuola saremo promossi, che in gita faremo i bravi, che non disobbederemo ai genitori, che non fumeremo le sigarette, le canne, che non berremo alcol, che in auto non correremo, che faremo sport, che troveremo una persona da sposare e faremo una famiglia, che saremo persone responsabili e tutti saranno orgogliosi di noi. Poi cresciamo e cambiano i rapporti, ma non l'abitudine alla promessa. Firmiamo contratti, mutui, perché la parola ovviamente non basta. Promettiamo di mantenere i figli, di essere fedeli sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Eppure io ogni volta che guardo quello che faccio, e lo guardo con un briciolo di distacco, non posso evitare di accorgermi che in ogni scelta, piccola o grande, c'è sempre il desiderio di non deludere le loro aspettative, quelle di mia madre e di mio padre. Me be lonely, you won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. È una storia un po' di appuntamenti mancati in realtà questa, nel senso che il padre era là ad aspettarlo, lui era in corsa e dovevano trovarsi, ma uno è andato e l'altro alla fine pure. E quindi cerchiamo di capire esattamente com'è andata. Pronto Alessandro? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, grazie per essere qui. Grazie a voi. Come stai? Bene, bene, grazie. Senti, la prima cosa che vorrei capire è, visto che ho visto alcune tue foto, una delle quali racconterò più tardi, insomma ho visto delle foto che sono passati un po' di anni da quei 35. Eh beh sì. Quanti ne hai certo. Adesso? Adesso ne ho 44, compiuti a luglio. Quindi si tratta di quasi 10 anni fa, 9 anni fa in questo episodio? All'incirca. Senti, tuo papà è ancora tra di noi, sta bene? Sì sì, sta benissimo e lavoriamo anche insieme, quindi lo vedo tutti i che, giorni. Che lavoro fate? Ma è terribile lavorare insieme ai genitori. Diciamo che non è facile, ci sono aspetti positivi e negativi. Bisogna mantenere i nervi saldi, diciamo. Che cosa fate? Abbiamo un'azienda di rappresentanza nel settore, diciamo, dei trattamenti termici, ramo industriale, ecco. Trattamenti termici, quindi fate condizionatori? No, trattamenti termici degli acciai. Ah, ok, quelle robe ipertecniche per cui anche se stai qui a spiegarmela non lo capirò mai. Diciamo di sì. Ma siete solo tu e lui, no? Ci sarà no, abbiamo anche dei collaboratori. Senti, ma questo episodio tu gliel'hai mai raccontato, gliel'hai mai fatto presente? Sì, sì, certo, ogni tanto ci ridiamo ancora su, perché ti dico, inizialmente il dubbio che mi stesse prendendo in giro ovviamente mi è venuto, poi io mi sono dato una spiegazione di quello che l'ha portato ad andare via dopo aver passato i primi ed aver aspettato un po' senza vedere. Qual è stata la tua spiegazione? Sai, la maratona è un evento che ha una particolarità, i primi, i migliori, quelli che magari l'estate successiva vanno alle Olimpiadi, corrono insieme a tutti gli altri. E non tutti questi, non tutti lo realizzano questo, per cui pensare che tu partecipi a un evento dove ci può essere chi arriva in metà del tuo tempo, magari all'inizio sfugge. Sì, o banalmente semplicemente uno non conosce la maratona e quindi non ha idea di quanto tempo ci metta uno a correre 42 chilometri e 100, quanti sono? 42? E 195. E 195, corri ancora Alessandro? Sì sì, corro ancora. Ah, e maratone come ne fai? Ne faccio, nel frattempo i tempi sono un pochino migliorati, ma comunque ancora molto molto distanti da quelli dei primi. Quindi in quanto la fai? La faccio in 3 ore 20, qualcosina meno di 3 ore 20. Senti, tu hai dei figli adesso Alessandro? Ho 2 figli, sì, Paolo che ha 5 anni e mezzo e Francesco che ne ha 8 compiuti. Vabbè, quindi neanche a scuola vanno. Hai già idea di che cosa vuoi che facciano da grandi oppure... Ah no, 8 compiuti fa la terza elementare. Sì, inizierà. Tra l'altro è un tuo ascoltatore, sono sicuro che è la radio che ti sente. Beh, che sente te in questo caso più che me. Sì, certo. sì, fa terza, inizia la terza. Che cosa fanno da grandi, Alessandro? Francesco vuole fare il veterinario. Sì. E Paolo ha detto che vuole fare l'ingegnere. Ok, questo è quello che vogliono fare loro. Quello che invece tu gli farai fare, che cos'è? Oggi, visto il clima in cui viviamo, per un papà avere delle aspettative per i figli è difficile. Limitiamoci allo sport. Vorrei riuscire a trasmettere loro quello che mi ha trasmesso mio papà, cioè la voglia di impegnarsi al di là dei risultati. Senti, e poi ti lascio andare, Alessandro, e ti ringrazio. Questa è una cosa che di fatto vorrei chiedere a tutti quelli che hanno scritto, proprio perché chiedendo un episodio particolare che raccontasse un po' di voi, mi incuriosisce sapere per quale motivo poi quell'episodio è stato scelto. Perché hai raccontato questa storia, per raccontare un po' della tua vita? Ho raccontato questa storia perché comunque in qualche modo lega il mio passato, le mie origini, mio papà, a quello che oggi è una passione importante per me, e quindi mi ci rispecchio sicuramente. Ma tra l'altro sei al lavoro in questo momento? Sono al lavoro. Quindi sì, direi che è il caso di tornarci. Ma tanto non abbiamo orari, quindi si recupera tutto, non è un problema. Alessandro, ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona giornata. Grazie a te, Matteo. Ciao, alla prossima, grazie. E ciao. Auguri per la trasmissione. Grazie. Fortuna che non ha detto buon lavoro, già ero lì che temevo. 349-238-6666. Ho deluso alla grande i miei. A 3 mesi dal diploma sono scappata di casa e ho abbandonato la scuola. Sono sempre stata ribelle e contestatrice, polemica in tutto. Ora 50 anni, sposata con 4 figli, ancora contesto l'autorità. Ma i miei ora mi appoggiano e contano su di me. È arrivato però un messaggio sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia, io sono qui, che dice così: Giada, ho 15 anni. I miei genitori non hanno grandi aspettative per me. Mi chiedono solo di non fare il medico, ma non so il motivo. Eppure è proprio quello che io vorrei fare. È ipotetico. Cosa vuol dire Giada? È ipotetico, ma non. Ma sono sicura che io li deluda. No, mi sa che non ho capito. È ipotetico, ma non sono sicura che io li deluda. Tanto lo faccio tutti i giorni. Loro mi chiedono di sistemare la mia roba e io puntualmente la lascio dove capita. E già cominciano le delusioni a 15 anni. Io ho la sensazione, non ho guardato bene il profilo di Giada, però ho la sensazione che Giada sia venuta alla sera finale di Io sono qui. E temo anche che sia la figlia di quella mamma. Tu te la ricordi, Tiziano? Quando abbiamo fatto le foto tutti insieme, si è presentata questa famiglia. C'erano la mamma, il papà e le 3 figlie. E se non ricordo male, Giada era una di queste. Giada, se stai ascoltando, confermalo. So che a un certo punto la mamma mi disse: lei è la tua ascoltatrice. La indicò, allora ci presentammo. E dopo la foto, andando via, la mamma ad alta voce, per far sentire a proprio agio sua figlia, disse: sai com'è? Sei un po' il suo primo amore. Credo che Giada volesse che il terreno sotto di lei si aprisse e potesse sparire. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Alessandro Lazzaretto ha una faccia furba. Alla faccia di un uomo di 44 anni precisi, proprio, che se lo guardi dici: quanti anni ha questo? 44, non 45, 44. Ha la barba e i capelli corti, sapete, di quelli che se li rasa tipo con il tagliacapelli a 2 mm. Ha la barba brizzolata, su un bel giubbotto tipo da motociclista, potrebbe essere un motociclista. Ha degli occhiali sportivi, quindi si vede che è uno che li usa per andare a correre a piedi o in bicicletta. La cosa strana però di questa foto, che è una foto in bianco e nero, è che è stata ritagliata, perché alla destra di Alessandro si vedono i capelli di qualcuno che entra nell'inquadratura, ma non sapremo mai di chi si tratta. Voi siete qui. La foto la trovate sul sito Radio 24, alla pagina Voi siete qui. Siamo in home page oggi, no? Viola dice di sì. Viola, guarda che se dici di sì, solo per farmi contento, adesso io vado a vedere. Ci siamo. Dopo ci siamo. Insomma, non capisco cosa mi sta dicendo, ma ci saremo. Da stasera saremo in home page. Entrate nella pagina di Voi siete qui sul sito di Radio 24, poi eventualmente lo linkiamo anche su Facebook, e ci trovate tutto quello che racconto. Trovate la foto della persona che è il protagonista della puntata e ci trovate una mappa. L'altra volta ho provato a spiegare com'era questa mappa. È molto semplice. C'è un puntino rosso, che è il puntino di Voi siete qui. Si apre questa mappa. La mappa segna esattamente dove si trova la persona di cui abbiamo parlato in quel giorno. E di fianco trovate invece l'elenco di tutte le persone che abbiamo raccontato. Al momento sono 3, ma diventeranno un bel po'. 349-238-6666. Aspettative dei propri genitori. Ero ingegnere in burnout. Paolo scrive: dopo un anno mi licenzio, divento operatore di cooperativa sociale. Paolo, anche tu però. Mio padre mi ha tolto la parola per un anno, sono dovuto uscire di casa. Cos'è la burnout? Qualcuno sa cosa è la burnout? Bonini lo sa. Ah, ok. Io credevo fosse una società. Credevo fosse tipo la Red Bull. La Burna. È un bel nome, però, no? Per un... No, anche Roberto è d'accordo. Ah, che non ce la faceva più. Era semplicemente bollito. Era bruciato. Burnout. Ok, letteralmente. Teresa, dovevo essere un maschio e aiutarlo nel lavoro. Questa è la madre di tutte le aspettative. Cioè, uno che vuole una roba e ne arriva un'altra. E poi Luciana, invece. Questo è forse il mio messaggio preferito di oggi. Mio padre no, non aveva aspettative, mia madre invece sì. È delusa, si aspettava che diventasse medico come mio padre, o che perlomeno mi sistemassi con un medico, o con un avvocato, o con un notaio. Sai perché? Vabbè, perché sono chiaramente le categorie dominanti. O comunque con chiunque si potesse permettere un anello di fidanzamento importante appartenuto a qualche nonna o prozia, o che mi avesse consentito di vestire casa solo con biancheria frette. Qualcuno che mi permettesse di vestire casa. Già vestire casa è che siamo in centro Italia. Vestire casa con biancheria frette, che sarà una marca probabilmente conosciuta, però anche Viola Bottoni, che è del centro Italia, non lo sa che cos'è la biancheria frette. E va bene. O che l'avesse chiamata mamma, che l'avesse regalato fiori per ogni suo compleanno, che l'avesse orgogliosamente consentito di dire quanto è figo mio genero. Perché sua mamma dice quanto è figo mio genero. E invece no. Luciana lavora per Playboy, è single, e la storia d'amore più intensa che ha avuto, scrive, è stata con uno squattrinato batterista jazz, che ovviamente mia mamma non ha mai conosciuto. 349-238-6666. Ve ne ho parlato prima. Ne ho parlato prima di questo libro che si chiama Open. È scritto da Andrea Agassi e racconta la sua storia. E racconta appunto la storia che riguarda le aspettative di suo padre. C'è un pezzo straordinario in cui racconta aveva 10 anni, credo, di un pomeriggio in cui lui va a giocare a calcio e scopre che gli piace giocare a calcio. Suo padre va là, lo prende e lo porta a casa. Guidando verso casa, papà dice senza guardarmi: non giocherai mai più a calcio. Io lo supplico di concedermi un'altra possibilità. Gli dico che non mi piace stare da solo in quell'enorme campo da tennis. Il tennis è uno sport solitario, gli dico. Non c'è un posto dove nascondersi quando le cose vanno male. Lui urla con tutto il fiato che ha: tu sei un tennista. Tu diventerai il numero uno al mondo, farai un sacco di soldi. Il programma è questo, punto e basta. È irremovibile. È disperato. Perché il programma era lo stesso anche per Rita, Filli, Tami, i miei fratelli. Ma le cose non erano mai andate come previsto. Rita si era ribellata, Tami aveva smesso di fare progressi, Filli invece non aveva l'istinto assassino. Mio padre lo dice sempre a Filli. Sei un perdente nato, gli dice. Filli non si prende neanche la briga di smentirlo. Gioca bene, ha talento, ma non tende alla perfezione. E a casa nostra la perfezione non è un obiettivo, è la legge. Se non sei perfetto, sei un perdente nato. A differenza di Filli, io invece litigo tutto il tempo con gli avversari. Qualche volta vorrei avere la capacità di Filli di infischiarmene di loro. Se un avversario mi imbroglia, spesso mi vendico al punto successivo. E non lo faccio per papà, ma sicuramente gli fa piacere. Lui mi dice sempre: hai una mentalità diversa da Filli, hai tutto il talento, la passione e la fortuna. Sei nato con un ferro di cavallo su per il culo. La mia storia, scritto da Andrea Agassi. Se vi capita, leggetevelo questo libro, anche se non giocate a tennis. C'era un altro pezzo, però mi sa che l'ho perso. Ho sentito un'intervista però in cui lui racconta del padre, che alla fine è quasi una figura simpatica leggendo il libro. Viene fuori, sì, quasi in maniera simpatica. Lui durante un'intervista ha raccontato che il padre, che sta bene, vive e vegeto, sta facendo la stessa cosa con i figli, con i suoi figli, cioè con i nipoti. Solo che uno non l'ascolta, l'altro invece urla in risposta a quello che lui gli urla, e quindi è abbastanza tranquillo. Ma quando gli ha raccontato, quando gli ha detto che sarebbe uscito questo libro e che lui non ne sarebbe uscito proprio bene come figura paterna, il padre gli ha risposto: sai cosa? Avrei fatto esattamente la stessa cosa. La rifarei anche oggi, solo che non l'avrei fatta col tennis, l'avrei fatta con il golf, perché dura più a lungo e si guadagna di più. 349-238-6666. Ciao Matteo, mio padre si aspettava che io facessi il bancario, invece faccio il doppiatore. Marco da Milano. Per la barba effetto non mi rado da 2 giorni? Non si usa il tagliacapelli, ma il distanziometro. Vabbè, qui è perché proprio volevano essere precisi. Questi ragazzi è perché, volevamo essere precisi. E poi ho scoperto, Viola, che manco tu lo sapevi, che Frette è una marca prestigiosa di biancheria per la casa, credo. Guarda, su internet c'è scritto the leading provider of the finest linens to homes and hotels. Wow, chiaramente uno si presenta come il migliore al mondo. 349-238-6666. Oggi è arrivata un'altra mail oggi che parla di aspettative, e tra quelle che sono arrivate ho scelto questa perché è una di quelle più strane probabilmente. Voi siete qui, @radio24.it. Questa è la mail di Petra. Quando mi iscrissi all'università non sapevo che mia mamma voleva che diventassi un avvocato. Mio padre non ho mai saputo chi fosse e mia madre ha fatto entrambi i ruoli. Dopo il diploma mi iscrissi a biologia e la finii in regola con gli anni e con gli esami. Cominciai a fare la ricercatrice e lo sono tuttora. Precaria, ovviamente, ma ricercatrice. Mi sono sposata 1 anno e 4 mesi fa. Quel giorno, mentre eravamo sotto le mani della parrucchiera, nella stanza d'albergo vicino alla chiesa, mia mamma mi disse: «Sai che avrei sempre voluto che facessi l'avvocato?» Lì per lì ho risposto solo «Ah sì?» e non ci ho pensato. Poi mi sono sposata. Sono partita per il viaggio di nozze. E quando sono tornata l'ho chiamata e mentre la raccontavo del Kenya, le ho chiesto se fosse vero. E lei mi ha risposto: «Sì, certo che è vero, perché credo che nella vita sia importante sapersi difendere». E allora l'ho chiesto: «Mamma, perché non me l'hai mai detto prima?» E la sua risposta è stata: «Ma non me l'hai mai chiesto». Al 349-238-6666 c'è qualcuno che chiede il numero di Luciana, che è l'ascoltatrice che ha scritto su Facebook che lavora a Playboy, ma non lavora per Playboy, lavora a Playboy. Cioè, non è una coniglietta, ci lavora proprio, lavora in redazione, credo. E comunque ha commentato: «Non fatemi dare nomi, andate lì e cercatelo voi, che già è imbarazzante di per sé». Io ringrazio Alessandro Lazzaretto, che ci ha raccontato oggi la sua storia. Ringrazio Tiziano Bonini, Viola Bottoni, Roberto Scaltritti e Stefano D'Andrea, che scrive con me questo programma. Bene sì, questa era la storia di Alessandro e parlava delle aspettative che i nostri genitori hanno su di noi. La storia di domani, invece, è quella di Giordano. È un sabato pomeriggio. Le nuvole stanno coprendo il tramonto e minaccia pioggia. Stiamo per andare a cena e suona il campanello. Alla porta si presenta un tizio che non conosco e che da come è vestito non mi dice niente di familiare. È un incrocio tra Vasco Rossi da giovane e un hippie, tipo Easy Rider. Ha un pizzetto con dei baffi incolti, pantaloncini sdruciti, una maglietta sporca, ma un paio di All Star nuove di pacca ai piedi. Alla domanda cosa desidera, il ragazzo risponde che cerca mobili vecchi. Io allora gli mostro della mercanzia. Lui li guarda con superficialità, come fosse un esperto. Ogni tanto si ferma e controlla meglio, ma dopo qualche minuto mi dice: «No, niente roba di valore».